Sometimes Truth is Stranger than Fiction. Sette spaccate. Vi sembro di buon umore? Sì, sì. Non lo ero fino a un minuto e 35 secondi fa. Poi cosa è successo? Che un minuto e 35 minuti fa mi sono accorto che stava per iniziare la diretta. Sono corso a gambe levate nello studio della diretta e mi sono gustato la fine di Stranger Than Fiction della Cattiva Religione. Sono un ragazzo sensibile io. Quando sento questi vecchi panchettoni, per un po' mi torna il buon umore. Buona, no? Diamo inizio alla puntata, sigla! Non ho la scaletta, Spadino, dai! Sono un professionista, io voglio iniziare con scaletta e caffè, dai! Burro e rock and roll. Fallo solo per farmi piacere, no? La tua colazione rock. È importante compiacere il tuo speaker. Pane, burro e rock and roll. Pane, burro e rock and roll. Questa è la nostra colazione. Benvenuti. Se cerchi una radio che fa roccheggiare, ecco l'hai trovata. No, non la cambiare. Pensa che fortuna l'averci incontrato. Ogni giorno alla mattina ascolta Rock FM. Andrò a memoria. Potrebbe essere la puntata 134. Secondo me lo è anche. Potrebbe essere mercoledì. Dovrebbe essere mercoledì. Potrebbe essere il 21 di novembre. Questo sì, lo sto leggendo nel calendario, quindi... Sono certo, come sono certo che questa è Rock FM, a meno che io mi sia presentato in un altro studio, ma no, sembra il solito, sì, via Locatelli 1, e questa è la nostra colazione. Beh, mi sta già scendendo il buon umore da Bad Religion, hai capito? Mi sta già andando giù. Vi porteremo fino alle 9 del mattino, svegliatevi con noi. C'ho la stupidera, come si dice dalle mie parti. La stupidera è una malattia che arriva alle persone un po' stanchine, quando il loro cervello inizia a incriccarsi. Vabbè, fortuna che c'è un lampione crepuscolare che veglia sopra la mia testolina. Mi sono presentato? No? Ciao, mi chiamo Ariel, detto l'Ariele. Conosciuto anche come l'Ariele Frizzante o Mr. Granchio. Chiamatemi un po' come vi pare, piace. Sì, come il detersivo o come la sirenetta, esatto. Con me c'è Spadino, un ragazzo raccattato dalla strada alla stazione centrale. Diciamo la verità, Spadino, diciamo le cose per come stanno. E l'abbiamo messo davanti a un mixer per alzare e abbassare degli slider, dei cursori. E lui fa regia, si dice così. Arriverà anche Roberto Fricantoni, che è la perla del nostro programma. È il gioiellino, è... come si può dire... il gioiellone anche, perché è bello cicciottello, ci terrà compagnia, un intellettuale e un rocker di riferimento. Ma soprattutto, signore e signori, tenetevi forte, perché abbiamo la grande musica di Rock FM. Ne sentirete delle belle. Inizio un filino, un cicinin epico con gli Uriah Heep, belli, belli stonati come solo loro sanno. Stonati non nel senso melodico, stonati in da gabba. Return to Fantasy. Che inizione, ragazzi, un inizio col botto, guarda. 134, avevo azzeccato, questo è il numero della puntata odierna. E avevo anche azzeccato, è Rock FM, pane, burro, rock and roll. E tireremo dritti fino alle 9 del mattino. Ragazzi, ragazze, mi è arrivata una mail. È arrivata una mail ad ariel@radiorockfm.com e solitamente è arrivata fresca, è stata scritta alle 6 e 37 minuti primi. Devo confessarvi che solitamente in questo orario non ne arrivano tante, soprattutto non ne arrivano datate 6:37. Questo implica il fatto che quella mail dovesse essere molto importante. Doveva arrivare subito nei nostri studi. Perché la notizia contenuta in questa email era roba che scotta. Ah sì. E secondo voi io ve la leggo adesso? Ah no. Conosco troppo bene le regole dell'avanspettacolo che mi impediscono di svelare la novità così subito. Devo farvi venire un po' di acquolina in bocca. Sì, anche tu che tra 3 minuti non potrai più ascoltarci perché sei uscito di casa e in macchina hai l'autoradio rotta. Mannaggia, ti perderai questa grande notizia. Ah, che roba. Roba col botto. Ma non posso dire nulla. Io posso soltanto farvi sapere che se volete interagire con noi via mail, ve l'ho appena ricordato. Se invece preferite utilizzare il nostro numero di SMS, vi caldeggio un, vediamo un po', 335-100-7777. No, sai Spadino che vorrei una base strana, ma mi sa che non ce l'abbiamo più. No, che sfigati che siamo. Prova a cercare, scusate ragazzi, devo cercare una base importante perché volevo prepararla. No, purtroppo non ce l'abbiamo. Almeno quell'altra ce l'hai? Eccola qui. No, ma volevo Mina io. Non ce l'abbiamo più? Motive? Allora canto io allora, scusa. Aspetta. Sarà capitato anche a voi di avere una musica in testa. Na na na na na na na na na. Zoom zoom zoom zoom zoom zoom zoom zoom zoom. Era una rubrica vecchia, adesso è un po' che non la facciamo più. Però la facevamo quando stavano per partire dei brani che hanno quel fascino strano che ti si piantano dentro. Questo è uno di quelli. Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. And the world. Pochi minuti di diretta e già sono stufo di vedere solo Spadino in questi studi. Ho bisogno di affetto umano ed ecco che corre a piedi da Bologna stamane Roberto Fricantoni. Buona giornata. Buona giornata. È trapelato, lo buona sapevo. Giornata, che corsa. Che corsa, pensi, solo 12 ore, 24 primi e 36 secondi da Bologna a Milano. La vedo solo un po' sudato, per il resto sembra buona. La smetta di correre, la prego. Sa cosa possiamo fare di bello? Un almanacco del 21 di novembre. Evviva il mercoledì! Oh, bene, sì. Wednesday! Iniziamo nel lontano 1783, ci trasferiamo a Parigi, quando Jean-François Pilâtre de Rosier e François Laurent, come ho apprezzato la sua pronuncia, compiono la prima ascesa con una mongolfiera non vincolata, quindi staccata da terra. Non vincolata? No. Bello questo nome, svincolata sì. Da tutto. Pensi. Anche noi siamo mongolfiere non vincolate. Esatto, mi piaceva questa metafora. Siamo come mongolfiere che sì, vagano libere per l'aere. Stupendo, non avrei saputo dirlo meglio. Volano per 25 minuti e arrivano fino all'altezza di 9000 metri. Tantissimo, complimenti. È poco più alti dell'Everest. Passiamo al 21 di novembre del 1905, quando un certo Albert Einstein pubblica sugli Annalen der Physik la teoria della relatività ristretta. Non sapevo che c'erano parecchie teorie della relatività, lei lo sa, ce n'è anche una ristretta. Sì, c'è la relatività ristretta sì. E la relatività allungata. Lei sa la differenza? Ma naturalmente, come il caffè, guardi, ristretto è più lungo. La credo, quando mi guarda così non posso fare altro che crederla. E passo a una notizia del 53. Le autorità del British Natural Historic Museum annunciano che il cranio dell'uomo di Piltdown, considerato come uno dei dei più famosi crani fossili del mondo? È un falso. Ah, straordinario, un premio speciale al falsario. Esatto. Complimenti. Dopo i falsi di Modigliani, esatto. Dopo i falsi di mezzo mondo di cui l'Italia anche è esportatrice. Il cranio dell'uomo di Piltdown era una ciofeca. Era una ciofeca. Pensi anche ai falsi pubblicati sulla grande rivista tedesca Der Spiegel, sì. I diari di Hitler. Noi stiamo per i falsi. Noi siamo sì, con, sì, i falsi. Con i falsi. Ma ottimo. Pensi che bello questo falso che ha tenuto sospeso il mondo per giorni. Il ma cranio giorni? O i diari di Hitler? Ma tutti e due. Dico, tutti entrambi. Però, viva i falsi. Viva Frick, i falsi. Dobbiamo assolutamente inventarsi un falso oggi. Un falso. Ce lo puntiamo. I diari di Mussolini. Lo facciamo? Facciamo. Mettiamo che era un po'... che gli piacevano un po'. Colpo di scena, Mussolini il superuomo latino, e invece aveva il difettuccio, il vizietto che gli piacevano. Appuntiamocelo. Va bene, non si sa mai. Potremmo diventare ricchi. Ricchissimi, anzi, ricchérrimi. Cosa dico ricchérrimi? Ricchioni. Lei è scemo. Alla faccia del pezzone, il buon Sting con Russians, 7:21 minuti primi. Aprite bene le orecchie perché ho un amico collegato a telefono che ha una grande notizia per noi. Un amico che ascoltiamo spesso e volentieri nelle dirette di Pane e Burro e Rock and Roll, e spesso e volentieri proprio in queste prime ore del mattino. Perché lui si chiama Carlo e almeno due volte alla settimana, non abbiamo ancora capito il perché e forse ci piace per questo, ci dà i numeri dell'otto. Buona giornata Carlo. Eccomi qui, ciao a tutti. Era già capitata un'altra volta o forse due? Esatto, sì, due volte in due mesi praticamente, che ci sentivamo il giorno che non è di estrazione, ecco. E questo implica il fatto che se ci sentiamo il giorno che non è di estrazione, esatto, vuol dire che l'abbiamo fatta, sono usciti! Signore e signori, la mia carriera radiofonica sta per terminare perché io e Carlo ci buttiamo nelle reti televisive locali a regalare numeri a nastro. Ma che esatto. Dico regalare, Carlo? Ce li facciamo pagare soldoni. Precisamente, perché come tutti. Qui, Carlo, c'è il fluido. Io vorrei sapere statisticamente gli altri quanti ne azzeccano. Ma secondo me sparano solamente delle gran pirlate, perché non è possibile. Cioè, noi con tutti i numeri che diamo li diamo solamente una volta e li ripetiamo sempre, quindi veramente è bisognerebbe, chiamare Striscia la Notizia e fare un servizio sul fatto che i nostri numeri escono. Cacchio, veramente. In fronte agli altri, guarda. Invece Striscia non ci ascolta nemmeno, probabilmente. Che esatto. Cosa si perdono, mannaggia loro. Allora, spieghiamo come funziona l'arcano. Tra Carlo e il sottoscritto Ariele c'è un accordo: giocali tu e si smezza. Esattamente, il casino è che io non smezzo mai una mazza, perché porca di quella vacca, io Lambo non lo gioco, e su quattro numeri che abbiamo proposto io, non giocando Lambo, non ho vinto. Perché attenzione, esatto, oltre a non a giocarli una volta sola, esatto. Dai, basta con sta storia della quaterna, però dai, diamoci al Lambo anche noi, Carlo, dai. È vero, 40 volte Lambo paga comunque, c'è bastavano 7 euro, erano 200 euro. C'è da dire una cosa, che la volta che lo giochiamo Ambo e ci esce la quaterna, è una volta buona che... Sì, esatto, salutiamo tutti e rifacciamo l'email da Le Mauritius. Va bene, noi non abbiamo vinto, ma come è successo l'altra volta, siamo certi che qualcuno di voi là fuori ha vinto e quindi speriamo di avervi fatto intascare qualche soldino così a gratis, grazie a Rock FM. Ma a me non passa il buon umore, caro Carlo, anche se tu, noi non abbiamo vinto, perché cioè so con certezza che la portinaia Carla li avrà giocati come fa sempre. E invece no, in questo proposito, siccome proprio lei è qui in questo momento a farmi due palle che non ti dico, se vuoi te la passo direttamente, te la passo dal mio cellulare, visto che no, qua è Carlo Devi, passamela okay. Subito. Ma dai, è qua, allora, ciao, vi saluto. Non ci posso credere. Pronto? Buongiorno signora Carla, ma è vero che non ha vinto neanche lei? No, non l'ho giocato ieri sera. Io sto ancora. Messo dobbiamo giocare, che è della torta. Ho capito, ma noi abbiamo azzeccato quelli di ieri, Shuracan. Lo so, ma non mi ha giocati. No. No, non li ho giocati. Carla, questa. Però il nostro amico. Perderà sempre, perché no, lui gioca sempre terno e quaterno. Carla, lei sta spostando l'attenzione sul vero problema di oggi. No, guardi, sono furibonda. Lei è furibonda, pensi me, che ci credevo che lei... Quindi lei ne gioca solo uno alla volta e lo tiene io un po'. Io sto giocando quello della torta. No. A proposito, la torta l'era buona o l'era velenata? La torta, signora Carla, era squisita. Ce la siamo mangiata tutti della radio e la ringraziamo. Ma non continui a sviare l'attenzione sul vero problema. Lei non mi ha giocato l'ambo di ieri, signora Carla. No, non mi ha giocato, l'ho lasciato indietro. Ma come giuro. Si fa? Ma come si fa? Non possiamo più fidarci neanche di lei, signora Carla. Come si fa? Faremo la prossima. Va bene, salutiamo l'amica Andrea. No, lascia la fadella Andrea che le ne rompi i coglioni. Vabbè. Signora Carla, è andata. Ci fa i tarocchi ai radioascoltatori? No, non ce li ho adesso dietro. Ma poi, questo che le drei è scemo, il mio amico Carlo, Che cos'è? È scemo. Carlo? Perché non si può venire a fare quelle cose lì. Ma quali? Di giocare alla quaterna? Di giocare alla quaterna, prima cosa. Ma lui lì l'ha detto che non si è contento da poco. Ma incredibile. Ne vuole tanti. No, ma quello siamo fatti così, signora Carla. Noi siamo fatti così. Non vincerete mai. Lo so, però in compenso. Io non voglio mettere il dito nella piaga, ma neanche lei ha vinto, però. Certo, quindi, ieri sera io come è uscito. Pari patta. Non oso immaginare cosa ha detto quando ha visto che era uscito. Esatto. Sai cosa ho detto? Vaffanculo, non l'ho giocato, è uscito l'ambo. Signora Carla, buona giornata! Grazie! Alla prossima, mannaggia. Cadono le certezze. Pane, burro e rock and roll. Pane, burro e rock and roll. Pane, burro e rock and roll. Mazza che figata sto programma, raga. Pane, burro e rock and roll. 7:32. Qualche problema? If you have a problem, if no one else can help, and if you can find them, paio ne ho io. You can hire the A-Team. Uffa. No, non ce la faccio a trasmettere oggi. Potevamo diventare milionari così, al volo. A me mi bastava anche solo che diventava milionaria la Carla. Io ero a posto. Mollavo tutto, me ne andavo in montagna e stavo lì. Così, a mangiare la polenta. Col formaggio. Invece no, dovrò andare avanti. Teniamo duro insieme allora, almeno fino alle 9, vi va? Un sacco di amici che scrivono: Davide, Andrea, Marco, Angelica, una strombazzata porta fortuna, presto! Stamani è un esame di neurofisiologia e ne so quanto il maestro Fricantoni. Angelica, guarda che non sai quanto ne sa Fricantoni di neurofisiologia. Dario da Genova, che ha la poesia del giorno. Fermare i miei pensieri perché interferiscono con la tua realtà. E questa me la chiameresti libertà. E vi fa male la sveglia presto a voi. Salutiamo Ari. E salutiamo anche... Dovete smetterla di scrivere i messaggi al contrario perché sono inquietanti. Oh Ike Leira. Oggi la città è molto scura. La profezia si sta adempiendo. Inizia il lavoro quotidiano che prevedo continui per una quarantina di anni. Perché? Sono messaggi random che arrivano al 335-100-7777. Corra nei nostri studi. Ecco, no, ma non no, lo dico eccomi, solo eccomi, no, eccomi. Ma non deve correre eccomi. Quando glielo dico. Sa che io la prendo alla lettera l'ho tutte capito, le volte. L'ho sto avrei da scaletta i compleanni del 21 di novembre. Le va? Naturalmente, assolutamente no. E allora sa cosa le dico? Parto io con un grandissimo filosofo, scrittore francese, drammaturgo Voltaire nasceva oggi nel 694. Nomen omen, un nome, un destino. Voltaire era così duttile anche in virtù del suo nome, Voltaire, cioè saper girare, saper... Che perle che saper regala. Voltare, saper non fossilizzarsi su una sola idea, non proseguire dritti, ma andare a zigzag. A zigzag, ottimo. A droit e a gauche. A gauche. Ottimo. Esatto. Voltaire, se utile Voltaire, non sempre tirar dritti. 1898 nasceva René Magritte, pittore. Su Magritte ha qualcosa da dire sul cognome? Magritte non saprei, no. Magritte era... Nemmeno viene, è veramente stupida quella che ha pensato. Se è la stessa che ho pensato io la vuole dire su Magritte. Un uomo estremamente filiforme. Eccolo, è la stessa che avevo pensato io, complimenti. Mi fa male starle vicino. Ci scusiamo con tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici, ma è l'effetto del mercoledì. Vogliamo regalarvi un mercoledì da leoni, spumeggiante. Oh, passiamo energico a un'attrice, la prego, la ricordi lei? La bellissima, allora no, abbiamo freak, se può. La bellissima, sì? Sono posseduto, sì, dal Mike. Ecco. Nasceva nel 1945, che è l'anagramma del 54, anche sì. Lo dico solo perché stimo Freak Antonio. Esatto, ecco. Sì. Goldie Hawn. Perfetto, attrice, lei. Regista degli USA. Ehi, sì, sì, sì. Ricordiamo, di cui ricordiamo un paio di film. Esatto, tutti dicono I love you. Perfetto. Il club delle prime voglie. No, delle prime mogli, ma vogli, per esatto. Favore, mogli. La morte ti fa bella. La morte ti fa bella. Qui bella manca un'elle. Manca un'elle, è colpa della redazione. La morte ti fa bella. Bella, perfetto. E chiudiamo con una cantante islandese, nasceva nel 66. La bellissima, sì, e bravissima Björk, maestro, Björk, sì. Björk. Evviva Björk, evviva sì. Il 21 novembre. Sempre. All of my love, all of my kisses. You don't know what you've been missing, oh boy. Oh boy. When you're with me, oh boy. Oh boy. The whole world can see that you were meant for me. Buddy Holly, oh boy. L'Ariele qui. Pane, burro, rock and roll qui. Mister Trombetta qui. Voi lì. Fricantoni là. Padino lì. 335-100-7777, la linea di contatto. Ieri ragionavo con delle amiche radioascoltatrici, che però saluto dopo, non adesso, che è un po' di tempo che non stiamo dietro ai gruppi d'ascolto. Cioè, una volta ci chiedevamo che gruppo d'ascolto siete? Non perdete questa, era una bella abitudine, molto bella. Vado a flusso continuo di ragionamenti e devo fare una segnalazione molto importante a Tino il tassista e a Sab la pulmista di Firenze. Loro si occupano delle insegne natalizie. Dico in specifico a Tino: oh Tino, qui in Vittor Pisani, di fianco al mio lampione crepuscolare, hanno messo un'insegna, una luminaria nuova, che oh, è il simbolo delle Zeppelin. Ce l'hai in mente l'angelo caduto, quello che cade, l'Icaro che cade? L'uomo con le ali che cade? Oh, qui a Milano a me mi ha messo fuori una cosa che sembra il logo delle Zeppelin. Vuoi mai che qua c'è... questo Natale c'è puzza di complotto, ragazzi. Secondo me hanno deciso di fare un Natale rock e non ci hanno avvisato per farci un dispetto. E per poi dire, ah, hai visto, avevamo fatto il Natale rock prima di voi. Oh! Se decidete di fare una cosa così dovete avvisarci prima. Siamo di Rock FM, eh? Comunque complimenti a chi ha costruito, probabilmente nella loro idea doveva essere un angioletto. Invece sembra proprio un Icaro che cade. E sembra il logo delle Zeppelin, vabbè. Vedo che in tanti anche quest'oggi iniziate a iscrivervi, continuate a iscrivervi al nostro provino per diventare musicisti rock con la bocca. Saluto Davide e saluto soprattutto, fatemi ritrovare l'SMS, Fred, che mi chiede se eseguo con la bocca la batteria di un pezzo dei Cannibal Corpse o dei Dayside. Poi mi passate. Fred, guarda che il provino noi lo facciamo libero a tutti. Anzi, avendo scritto questo SMS, già sei un provinante. Prima o poi parteciperai anche tu a Pane, Burro, Rock and Roll. inizia a allenarti. Pastorius, McCartney, Jack Bruce. Beh, loro sono veri maestri del basso. Amici, fidatevi di noi, non diventerete mai come loro. O meglio, non lo diventerete mai se continuerete ad ostinarvi a voler suonare il basso con le dita. 1, 2, 3, 4. Pane, burro e rock and roll vi dà l'occasione di diventare bassisti rock con la bocca. Iscriviti al provino gratuito inviando un SMS al 335-100-7777 con la scritta rock con la bocca. Sì! Non perdere l'occasione di riscrivere la storia del rock con la bocca. Devo dire che ultimamente mi sto ricredendo per quello che riguarda la mia posizione personale sulla rubrica Le parole ribelli. Le devo fare i miei complimenti, gli ultimi termini sono stati abbastanza tranquilli. Ci siamo lasciati alle spalle cazzo, scoreggia, pus, e finalmente ci stiamo occupando di qualcosa un po' più di concreto, grazie. Sì, lei comunque DJ Ariele sa che il turpiloquio non era fine a se stesso. No, ma? Noi, beh, ma a buon fine, ma per cultura. Eccolo lì, perfetto. Le parole ribelli, il vocabolo rock, l'idioma... Contro. L'idioma contro, bravo. Alla parola rock di quest'oggi, ovviamente sì, domanda stupida. Naturalmente l'ho preparata. La parola rock di questa puntata sì? È l'aggettivo fallico. Grazie, complimenti, grazie mille. Lei si era un po', come dire, appisolato sugli allori. Sì, va bene, occupiamo. E io voglio scuoterla. La prego, vada. Dal tardo latino fallicus, usata sì. Già nel vocabolario comunque conosciuta, già dal 1549, adesso dire anche l'età dell'aggettivo in questione. Fallico, che è inerente al pene, relativo all'organo riproduttivo, l'organo genitale del maschio. Immaginavamo. Propiziatore di riti legati alla natura e alla sua fecondità. Vedi, rito fallico, anche presso gli antichi e gli attuali popoli primitivi. Ottimo. Psicanalisticamente abbiamo la fase fallica, ai. Che sarebbe il periodo di organizzazione della libido infantile, sì. Successiva alla fase orale, certo, e a quella anale, eccola lì. Nelle quali le pulsioni sono, badi bene, attenzione, sì. E qui entriamo in un campo minato. Le pulsioni sono per entrambi i sessi, sì. Unificate sotto il primato dell'organo maschile. Questo vuol dire che se anche sia una femminuccia si passa la fase fallica. Avrei tanto voluto saperlo e grazie alle parole ribelli effettivamente ora lo so. Ma non è abbastanza sconcertato? Pensavo che la cosa... Beh... Non vedo solo l'ora di chiudere la rubrica io. La vedo comunque piuttosto turbata. Un filo. Rock and roll to you, give rock and roll to you, say rock and roll. È stato Dio a darci il rock and roll. L'ha dato a tutti. Rock and roll. Ce l'ha infilato dentro ognuno di noi. I Kiss. God gave rock and roll to you. Tutti insieme, anche voi. Impiantati in tangenziale! Rock and roll to you, gave rock and roll to you. Diteglielo al vostro vicino che sta ascoltando M2O. Vieni dalla nostra parte! Rock and roll to you, gave rock and roll to you. Te telefonate, telefonate al vostro amico che ascolta Gigi D'Alessio e diteglielo: God gave rock and roll to you. Saluti Elena. I Kiss sono il gruppo preferito dei suoi bimbi. Ah no! Ma erano i bimbi seduti con me ieri sera. No! Spero non stiano stanno ascoltando adesso. Hai 30 secondi per dirmi se stanno ascoltando adesso, se no dico una cosa. Intanto ne approfitto. Ma guarda un po' te che roba. Allora, mentre scopro se i bimbi dell'amica Elena se non l'ascolto oppure no, devo salutare, sì, devo salutare delle altre amiche. Si chiamano Kiss Sexy. Queste ragazzacce vanno in giro per l'Italia e si truccano da Kiss e suonano i Kiss. Fica come cosa. Cioè, uno dice, l'idea è buona. E infatti si divertono abbastanza. Le devo ringraziare perché ieri sono venute negli studi di Rock FM tutte le quattro Kiss Sexy senza il maschietto, che saluto anche il maschietto, però non c'era, perché ci hanno truccato. Io ero Ace Frehley, quello, l'uomo dello spazio con la faccia argentata. Max De Rieu era Paul Stanley. Claudia era la donna gatto. E Peter Criss, dico bene, il batterista, spero di non aver detto male, se no si arrabbiano. E Frick Antoni, ragazzi, era un grande Gene Simmons. Non posso svelarvi il perché abbiamo fatto questa cosa, ma intanto ringrazio le Kiss Sexy e prima o poi ve lo farò vedere. Allora, visto che ve lo farò vedere, nel senso vi farò vedere cosa succede in queste immagini. Siamo in ritardissimo, ma devo per forza raccontarvi questa cosa. Scopro appunto che ieri ero al tavolo con Elena, che saluto. C'erano questi due bimbi fenomenali, che poverini erano al tavolo con dei rockers, cioè, messi male, no, non eravamo messi male, però siamo un tavolo così, diciamo che ogni tanto veniva fuori qualche parolina, tipo la parola con dentro le due Z, però se adesso loro non stanno ascoltandoli, ogni tanto usciva un cazzo, ecco. E allora il bimbo diceva, guarda che quella parola non si dice, tu hai detto... e lui però non la diceva, solo con labiale. Tu hai detto... che storia i bimbi. Frigorogna e poi ci sentiamo per la seconda ora. Io mi sa che non ci esco da oggi. Ehi, Frigo! Sirogna! Senti qua, il giornale dice che nelle prime due settimane di proiezione il film Ratatouille ha incassato 10 milioni di euro solo in Italia. 10 milioni di euro, ti rendi conto? Cazzo è Ratatouille? È un film dove il personaggio principale è un cazzo di topolino francese che sa cucinare e che vuole fare il grande chef, il cuoco. Ma dai! Proprio così, 10 milioni, Frigo, ma ti rendi conto? Basterebbe avere una telecamera e diventeremo miliardari anche noi due. Fico! Io però non so cucinare nulla, e te? Io so fare la frittata! Ah, beh, però io so parlare il francese. Ah, sì? Oh, sì, so parlare un perfetto francese. Senti qua, mio amico Frigo. Non funzionerà mai. Proviamoci almeno, mon ami, non essere così disfattiste. Porbacco.